cosa diceva il fumo. Mudube viveva con la sua famiglia in un'isola davanti alla costa africana. Abitavano in una grossa capanna, si rifornivano d'acqua in un ruscello e coltivavano grano turco e patate dolci. Il padre di Mudube cacciava antilopi e cinghiali. Mudube sapeva che da grande sarebbe diventato cacciatore come suo padre. Così ogni giorno con sua sorella Katale si esercitava a tirare la lancia. Mudube prendeva in giro la sorella dicendole: Niente male per una ragazza. Del resto, perché poi dovresti imparare a cacciare tu che sei una donna? Mudube sì che sarà un cacciatore. Una notte il padre di Mudube non tornò a casa dopo la caccia nella foresta. Mudube, Katale e il loro nonno andarono a cercarlo. Trovarono il suo corpo seminascosto da un albero. Era stato ucciso da un leopardo. Tristemente riportarono il corpo a casa e lo cremarono sulla cima di una collina davanti al mare. Sul far della sera il vecchio accese un fuoco davanti alla capanna. Gettò erbe e semi nel fumo, mormorando sottovoce. Gli altri componenti della famiglia stavano seduti in silenzio. Sapevano che il fumo avrebbe rivelato al vecchio il destino della famiglia, ora che il cacciatore era morto. Mudube sorrideva fra sé. Sapeva cosa avrebbe detto il fumo. Indicherà me, Mudube, come nuovo cacciatore e capofamiglia. Quando infine il vecchio si allontanò dal fuoco, in primo luogo si rivolse a Katale. Tu, figlia del mio sangue, quando spunterà l'alba, dovrai prendere la lancia di tuo padre, il suo arco e le sue frecce. Tu caccerai per la famiglia e tutti dovranno rispettarti. Katale, stupefatta, non poté fare altro che fissarlo in silenzio. Ma Mudube era furioso. «E io cosa dovrei fare?» chiese. Il vecchio rispose con calma. «Tu sei giovane e forte. Coltiverai il grano turco per tua madre, porterai l'acqua e raccoglierai le messi». «Ma questo è lavoro da donna!» fece con ira Mudube. «Io dovrei essere il cacciatore! È compito mio, non di Katale!» «Il fumo dice che tu non devi cacciare», rispose il vecchio. «Il fumo mente!» gridò Mudube. «Il fumo dice la verità. Vieni a vedere». Il vecchio, con il suo braccio magro, fece cenno al ragazzo di avvicinarsi. Ma Mudube corse via nell'oscurità e passò la notte in una caverna vicino al fiume. Al mattino seguente, sempre ebbro di rabbia, rientrò nella capanna mentre tutti dormivano. Prese la lancia di suo padre e si diresse verso la foresta. Subito un'ombra balzò dal ramo di un albero. «Il leopardo!» mormorò Mudube. Scagliò la lancia e il leopardo cadde morto. Mudube trionfante lo portò a casa. Katale stava seduta davanti alla capanna con un antilope che aveva cacciato nella pianura con l'arco e le frecce. Sorrise felice nel vedere il fratello, ma Mudube la ignorò. «Le antilopi sono molto più facili da uccidere di un leopardo», disse con orgoglio al nonno. «Sì», sorrise il vecchio. «Allora chi è il miglior cacciatore?» chiese Mudube. «Guarda», fece il vecchio. Prese una manciata di erba e di semi e li gettò nel fuoco, mentre Mudube osservava con ansia le fiamme che si alzavano. Vide nel fumo se stesso remare in una canoa dall'isola verso la terraferma, con molte pelli di leopardo ammucchiate intorno, e poi ritornare con la canoa colma di frutta, vino e stoffe dai vivaci colori per la famiglia. Mudube applaudì gioiosamente. «Vedi? Io ucciderò i leopardi e mi occuperò di voi scambiandoli con cibo e vestiti!» «Sì», Ma osserva ancora, disse il nonno. Questa volta Modube vide nel fumo enormi mandrie di cinghiali e antilopi. Guarda con che velocità si riproducono le antilopi e come si moltiplicano i cinghiali. Essi non hanno nemici, poiché tu uccidi tutti i leopardi. Il loro numero aumenta con ogni stagione che passa. Che importa? Chiese Modube fissando il fumo. Importa, perché ogni animale deve avere i suoi nemici. Vedi, i cinghiali e le antilopi diventano audaci e rubano il raccolto di grano turco e di patate dolci dai nostri orti. Modube scosse le spalle. Io porterò a casa cibo migliore quando baratterò i leopardi. Zitto e osserva il fumo, intimò il vecchio. Allora Modube vide se stesso cercare e cercare, finché trovò le tracce di un leopardo. Ma si trattava di un animale vecchio, dalla pelliccia sciupata e spelacchiata. Quello era l'unico leopardo rimasto sull'isola. Cosa farai ora, gran cacciatore? Chiese il vecchio. Caccerò antilopi, rispose Modube aggrottato. E infatti il fumo confermò quel che lui diceva. Vide se stesso avvicinarsi controvento a un branco di antilopi e colpirne una. Fece centro, ma la mandria di antilopi si spaventò e fuggì precipitosamente in massa per la pianura, centinaia e centinaia di animali. Poi il fumo si oscurò e la visione svanì. Modube vide la sua famiglia che piangeva e si lamentava. Dietro di loro si vedevano i resti della capanna e dell'orto completamente distrutti dalla grande fuga delle antilopi. L'ultima cosa che il fumo mostrò fu una visione della famiglia ammucchiata nella canoa che vogava tristemente verso la terraferma per cercare alloggio e rifugio in qualche villaggio. Il fumo si diradò. Nessuno parlava. Modube si alzò in piedi e lentamente andò a prendere le armi di suo padre. Le porse a Katale con un sorriso. Sorella, devi cacciare tu per la famiglia. Ma e tu, fratello, cosa farai? Chiese Katale accettando le armi. Io? Rimarrò a casa con la mamma e con il nonno. Porterò l'acqua e coltiverò il grano turco. E proteggerò il raccolto dai ladri. Non ci sarà cinghiale o scimmia che oserà rubare nel nostro orto finché ci sarà Modube, il grande cacciatore, a proteggere la sua famiglia.